Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento molto particolare. Parleremo di dieta mediterranea contro cucina francese. Perché questo? Perché sono, diciamo, le due candidate, poi scopriremo cosa significa essere candidati, cosa significa patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Sono candidati a ottenere questo riconoscimento, appunto, dall'UNESCO. E sono, è una contrapposizione molto forte. Io mi chiedo perché non ci sia cucina italiana contro cucina francese, ma questo lo andremo a scoprire, magari facendo intervenire alcuni personaggi che hanno posto poi queste candidature. E andremo anche a verificare perché, ad esempio, nella dieta mediterranea non è stata aggiunta anche la dieta padana, che qualcuno ha avanzato, e avremo con noi un ospite importante che ci parlerà di questo. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, io vorrei cominciare questa trasmissione dal dottor Giovanni Puglisi, che è presidente della commissione italiana UNESCO, per chiedere a lui cosa significa patrimonio dell'umanità assegnato dall'UNESCO, quali valori ha e quali sono, diciamo, le caratteristiche per ottenere questo riconoscimento in un caso particolare, appunto, come questo, che parla di cucina o, se vogliamo, di stile di vita. Buongiorno, buongiorno a Puglisi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ma guardi, innanzitutto va chiarito che la candidatura della dieta mediterranea è stata una candidatura posta dalla Spagna come primo proponente, e sulla quale successivamente il nostro paese, tramite il Ministero delle Politiche Agricole, ha aderito insieme alla Grecia e al Marocco. Va chiarito altresì che non si tratta di candidare dei prodotti. Questo è un aspetto molto importante, perché poi tocca il tema del senso delle candidature nelle liste dell'UNESCO. Bensì si tratta di candidare delle tecniche che poi portano alla produzione, all'utilizzo di qualcosa. Quindi non c'è una competizione, per esempio, con la cucina francese sulla questione dei prodotti, ma il problema è le tecniche, quindi l'espressione di una identità forte, che è quel determinato sito, chiamiamolo virtualmente così, rappresenta. Infatti i francesi hanno obiettato sulla dieta mediterranea che non esprime l'identità culturale di un popolo, ma esprime una tendenza transnazionale. Questo è un problema che ancora è aperto, e quindi è il problema chiave dell'operazione, perché se così è, e allora a questo punto è un po' difficile sostenere che la dieta mediterranea esprime un'identità nazionale, ma io credo che non sia oggettivamente così, e che sia importante invece riconoscere una tradizione, una filiera culturale che in qualche modo, nelle tecniche che hanno portato alla produzione di questa dieta e quindi alla sua adozione da parte delle genti di questi paesi, ha prodotto effetti consolidati nel comune vissuto. Bene, sì? mi sembra che il suo intervento sia di una chiarezza proprio cristallina. Lei ci ha dato tutti gli elementi per poter continuare su questi discorsi. Faccio solamente una sottolineatura, che mi sembra davvero sconcertante che lo abbia presentato la Spagna, e poi magari vedremo anche perché. Allora, abbiamo con noi, come ho detto prima, l'onorevole Francesca Martini, sottosegretario alla salute, la quale mi sembra di aver letto, poi magari mi corregga, che è abbastanza contraria a questo. Lei vorrebbe avanzare la dieta mediterranea, o meglio la dieta italiana, è così? Sì, buongiorno. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Devo dire, l'argomento è molto interessante. Il professore che mi ha preceduto è stato davvero in qualche modo chiarificante rispetto a un tema in cui noi abbiamo identificato la dieta mediterranea come un motore di promozione della cucina italiana. Sembra non sia così, perché in realtà quello che si intende, vista anche la candidatura che è stata posta dalla Spagna, è un'espressione culturale del bacino del Mediterraneo. Io in realtà su questa cosa avrei preferito vedere contrapposta la cucina italiana alla cucina francese, ma ancor di più proprio perché l'Italia è un paese così diverso, così lungo, così diverso anche come abitudini alimentari. Per cui voi ricorderete che su Corriere uscì quell'articolo in cui io parlai, perché non la dieta padana, legata quindi al consumo di prodotti diversi e a tradizioni culturali e culinarie assolutamente diverse. Ma una cosa mi premeva sottolineare, proprio per restare un po' in quello che è il mio ruolo, cioè responsabile anche della delega alla nutrizione e all'alimentazione all'interno del Ministero che rappresento. Si è molto parlato di una dieta mediterranea che è una dieta sana e forse senz'altro i principi che sottendono all'idea di utilizzo di alcuni prodotti rispetto ad altri, inizialmente proponeva uno stile di vita sano. In realtà, se noi guardiamo come gli italiani hanno interpretato la dieta mediterranea, devo dire ci si devono rizzare i capelli. Abbiamo un 44% di popolazione italiana che è in sovrappeso o obesa. Quindi probabilmente è un po' da rivedere anche tutto il modo in cui poi certo. Le nostre signore interpretano nelle loro cucine l'idea di un mangiare sano. Bene, io grazie, la ringrazio. Sentiamo subito un ascoltatore dalla provincia di Foggia. Andrea, buongiorno. Buongiorno signor Paolini, la ringrazio per la possibilità di farmi intervenire in questa trasmissione. Devo dire, è la prima volta che parlo per radio, su Radio 24, quindi la ringrazio per questa Bene. Opportunità. Andiamo al sodo, Andrea, perché abbiamo sì, tante... In realtà io volevo fare un intervento a tecnico, nel senso che non mi occupo di gastronomia, però mi piace la cucina italiana, la cucina mediterranea. E trovo che il valore più grande che abbiamo è quello della, al contrario da quello che diceva l'onorevole Martini. Sì. Sì, l'onorevole Martini, è che la nostra è una cucina sana, è una cucina soprattutto quella mediterranea propria, cioè quella del sud Italia, è una cucina che tratta dei prodotti di qualità. Io faccio sempre l'esempio, quando ne parlo di questo argomento, dell'idea di una mia amica che fa la cuoca al nord, no? E quando viene nelle mie zone sottolinea che i pomodori pugliesi, ad esempio, hanno sanno di pomodoro, cioè hanno una qualità di gusto che è superiore a quella dei pomodori, diciamo, delle altre zone. E secondo me la qualità del prodotto è fondamentale per la cucina e noi abbiamo questo Bene, valore. Sicuramente la nostra è una cucina che sia padana che sia mediterranea, è una cucina di prodotto e non una cucina di processo come quella sicuramente francese, ma poi andremo a sviscerare anche questo argomento sicuramente. Io volevo tornare al professor Puglisi per chiedergli: professore, ma sono tante le candidature che vengono sottoposte all'UNESCO per avere questi riconoscimenti, o veramente sono ben selezionate? No, guardi, purtroppo sono tante quelle che arrivano sul tavolo della commissione che deve valutarle. Lei pensi che questa lista lista di UNESCO, che è entrata in vigore da poco, quando è entrata in vigore aveva già 90 elementi incardinati e per l'Italia ne aveva due: l'opera dei pupi siciliani e il canto a tenore dei pastori sardi, perché derivavano da una precedente lista che era quella dei capolavori orali e immateriali dell'umanità. Adesso noi siamo arrivati per la prossima riunione che c'è ad Abu Dhabi, le candidature fino ad oggi che sono pronte sono 111, che sono quelle presentate lo scorso anno. È chiaro che occorre una valutazione molto seria, cioè la lista, non, come lei può ben capire, è una lista che riguarda tutto il mondo, certo. E l'inserimento delle dei siti, ripeto virtualmente chiamiamoli siti, in questa lista è un'operazione che avrà gli occhi del mondo su di essa, infatti si chiama patrimonio dell'umanità, nel senso che non porta ricchezze o risorse aggiuntive, l'iscrizione in queste liste dell'UNESCO, ma porta una visibilità mondiale che indirettamente poi si trasforma in valore materiale. Certo. Pensi, per i siti storico-artistici, sì, certo, il flusso del turismo incrementa del 30%. Bene. Quindi c'è una grande vigilanza su queste proposte. Ed è giusto che sia così per certi versi. Bene, io la ringrazio, grazie del suo intervento. Torno all'onorevole Martini, ma ricordo il numero verde 800 24 00 24. Onorevole Martini, volevo chiederle, nessuno quindi ha presentato un discorso di cucina italiana o di dieta padana come candidatura? No, in realtà abbiamo visto che il tema ha interessato una visione di una cucina che riguarda, o diciamo di uno stile alimentare che riguarda il bacino del Mediterraneo, che senza dubbio ha delle caratteristiche positive rispetto ad altri stili di vita. Penso al modo in cui si mangia negli Stati Uniti, ricchissimo di grassi trans, che ha portato poi a un'esplosione dell'obesità e delle patologie cardiovascolari e oncologiche. In realtà quello che è importante sottolineare è che uno stile di vita poi deve essere concretizzato da una cultura alimentare. Certo. Che deve necessariamente ridurre grassi e carboidrati per ottenere poi quelli che sono dei risultati in salute. Quindi quello che non è in discussione è assolutamente il prodotto italiano, che anzi abbiamo la fortuna di avere dei prodotti che sono tra i migliori al mondo in moltissimi settori. Certo. Dell'agroalimentare, della produzione agroalimentare italiana. Quello che però mi preme sottolineare è che se si vuole identificare la cultura culinaria italiana con il bacino del Mediterraneo, si fa un grosso errore. Beh. Perché la cultura culinaria delle aree del nord è assolutamente diversa. Yes. Per molti. Certo. Versi. Bene, la ringrazio, grazie all'onorevole Martini di essere intervenuta. Sentiamo Maura da Roma, buongiorno Maura. Buongiorno, grazie per il vostro ascolto a me. Allora, io volevo sottolineare una cosa. Secondo la mia modesta opinione, penso che si tratti di dieta mediterranea come materie prime, nel senso che noi abbiamo il grano, la pasta, quindi il grano con tutte le sue lavorazioni, la presenza dell'olio, che probabilmente è meno presente in altri tipi di cucina, le verdure fresche, il pesce, e quindi sono, diciamo, gli alimenti che da un punto di vista della salute, quindi della corretta alimentazione, sono quelli migliori. Poi naturalmente le preparazioni possono variare, ma forse per cucina italiana, forse giustamente non troppo mediterranea, ma insomma, anche questo è tutto da vedere. Questo secondo me è il nodo di cui si potrebbe discutere. Beh, io credo che comunque il modo che si potrebbe discutere è che l'Italia ha presentato questa candidatura assieme ad altri paesi, addirittura a traino della Spagna, e questo credo che sicuramente sia un errore, nel senso che la Spagna esprime una propria cultura a tavola, anzi addirittura oggi la Spagna esprime una cultura completamente diversa dalla nostra. Quindi penso che il discorso di presentare una candidatura assieme a tanti altri paesi il nostro paese, che credo che abbia una tradizione o identità molto forte, non sia stata una strategia veramente che alla fine può pagare. Comunque ricordo il numero verde 800 24 00 24. Ora abbiamo con noi Gualtiero Marchesi, tutti lo conoscono, è inutile che lo stia a presentare, però siccome Gualtiero Marchesi tanti anni fa veniva considerato vicino alla cucina francese ai tempi della Nouvelle Cuisine e poi oggi viene considerato invece italianissimo a tutti gli effetti, gli voglio chiedere, caro Gualtiero, ma sei d'accordo che l'Italia partecipi alla candidatura della dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità? Ma sì, come no, abbiamo una grande tradizione nella cucina italiana, tanto che sto pensando di fare un libro che sia un po' la guida alla cucina italiana. Credo che il cuoco sia un po' allontanato, facendo un po' le cose che voleva fare, facendo il creativo d'oltranza, e credo che bisogna mettere fine ai giochi, no? E parlare seriamente. Credo che abbiamo un patrimonio di cultura incredibile che va solamente valorizzato. Pronto? Sì, sì, no, ti sto ascoltando. Ho sentito un segnale dentro. No, no, ti stavo ascoltando, sono però... sono all'aeroporto, visto che ho perso... Ah. Sono all'aeroporto, per cui... Ah. E sto per partire. No, ti dicevo, sì, che però, sì, che, attenzione, cioè non è che sia stato presentato la candidatura della cucina mediterranea da un, sì, gruppo, sì, di paesi, tra cui l'Italia. Quindi l'Italia, sì, fa parte del gruppo. Cioè non è che l'Italia è a sé stante e porta avanti un discorso proprio di candidatura. E questo, secondo me, è il punto, sì, credo, sì, abbastanza importante. Sì, ma certo, ma perché poi la cucina del Mediterraneo si assomiglia un po', non è molto diversa da, diciamo, dalla cucina mitteleuropea. Se noi milanesi siamo quasi più vicini alla cucina mitteleuropea che a quella mediterranea, se vogliamo. Vediamo i nostri piatti che assomigliano, infatti sono fatti col burro invece che con l'olio, tranne la parte ligure e la parte sul mare. Ecco, appunto, è questo. Però... che secondo me l'unitarietà dell'Italia, secondo, sì, me non si identifica nella cucina mediterranea, cioè non, no, è, non, no, è unitaria. Questo è vero, sì, la cucina italiana, ha detto benissimo il presidente dell'Accademia, Giovanni Ballarini, che tu conosci bene, che c'è un filo conduttore comunque, sono le regioni, però c'è uno stile italiano, se possiamo così definire. Sì, appunto, ecco, allora io ero d'accordo su presentare un discorso di patrimonio dell'Italia a tavola, cioè diciamo molto più generico, molto più diciamo però italiano, facendo entrare in questo discorso tanti altri paesi, e secondo me non si salva l'identità nostra. Comunque ti sento molto di corsa, forse hai perso l'aereo, ti lascio andare, sentiamo Guido da Ferrara, grazie Gualtiero, l'ho presto. Definita, prego. Davide. Sì, prego. No, l'ho definita semplicemente il gusto sottile della cucina italiana. Bene, bene. Grazie Gualtiero. Sentiamo Guido da Ferrara. Buongiorno Guido. Sì, buongiorno. Io vorrei fare un intervento, direi, nel senso che se la proposta, se la candidatura è stata fatta dalla Spagna e noi siamo andati a rimorchio della Spagna, secondo me che gli spagnoli probabilmente sono stati più bravi di noi. Ma guardi, sentiamo subito, abbiamo rintracciato il senatore Paolo De Castro, che in questo momento è vicepresidente della nona commissione permanente agricoltura e produzione agroalimentare, ex ministro delle politiche agricole, è lui che ha presentato assieme agli spagnoli questa proposta. Buongiorno Paolo. Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Davide. No, non è andata esattamente così. Prego, Elena Espinosa, ministra dell'agricoltura spagnola, ha proposto a noi e la candidatura è stata presentata assieme. Noi non siamo andati a rimorchio, non so chi è l'interlocutore che parlava, ma l'Italia l'ha presentata contestualmente alla Spagna e poi insieme a Elena Espinosa avevamo coinvolto, e infatti risulta la partecipazione sia della Grecia sia del Marocco. Questo è diciamo il passato. Adesso siamo nella fase calda, perché i commissari dell'UNESCO stanno valutando questa candidatura. Devo dire che non arrivano buone notizie, almeno per quelle che sono gli ultimi... Ma guarda, abbiamo sentito prima il presidente della Commissione italiana, il professor Puglisi, il quale non si è minimamente sbilanciato, devo dire. Quindi ha detto che ci sono tantissime candidature, comunque, questo sì. Tantissime candidature, purtroppo è un'operazione che richiede un impegno straordinario, non soltanto... dei, diciamo così, degli addetti ai lavori, ma richiede in realtà un impegno straordinario anche della diplomazia dei vari paesi, dei ministri degli esteri. Siamo tutti impegnati, come sappiamo anche il Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del luglio scorso facemmo una grande mozione firmata da quasi 100 senatori, quindi della maggioranza, dell'opposizione, e con il voto favorevole del governo. Quindi c'è un impegno corale di tutti su questa candidatura. Io mi auguro che questo impegno si trasformi effettivamente in un lavoro anche diplomatico molto forte. Non è assolutamente facile e questo richiede quindi davvero un impegno importante. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di dieta mediterranea e cucina francese, candidati ad essere riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Io, prima di riprendere così il discorso con il senatore Paolo De Castro, voglio sentire Mohamed da Torino, un radioascoltatore. Buongiorno Mohamed. Buongiorno dottor Paolino, e grazie per avermi chiamato. Niente, il mio intervento comunque sarà abbastanza breve, ma soprattutto sarà un appello a cercare di favorire questa, diciamo, questa cultura gastronomica che conosce quest'area, che è il Mediterraneo, e non guardo il lato, diciamo, dei premi, perché i premi sono sempre stati simbolici. Ma questo non è un premio, questo è un riconoscimento molto particolare sull'identità e quindi secondo me va sulla cultura soprattutto più che un premio. Comunque, dal mio punto di vista, comunque, la cultura mediterranea comunque c'è una somiglianza che è, diciamo, da non sottovalutare, a parte gli ingredienti che sono sempre gli stessi, rimane le tecniche della preparazione dei piatti, ma il mio appello è di usare questa cultura per fare regnare la pace in tutti questi paesi di quest'area, soprattutto questo, favorendo, creando delle festival internazionali, gli scambi di studenti che si interessano alle cucine, in diversi alberghi, in diverse scuole, alberghieri in tutto il paese, e questo, diciamo, il mio appello, che questa cultura che non conosce i frontiere in quest'area, e rimane sempre la cucina mediterranea, è il mio punto di vista, bene, è la mia cucina nel mondo. La ringrazio di questo suo intervento, che sicuramente sposiamo, credo che possiamo sposare tutti sicuramente come così trasferimento di culture e di conoscenza dei vari popoli. Io però voglio leggere al senatore De Castro anche molti sms che mi arrivano. Mi spiega che cos'ha la cucina lombarda o quella emiliana di Mediterraneo? La cucina del nord Italia che cosa c'entra col concetto di Mediterraneo? E poi potrei continuare, Paolo, di tanti sms che arrivano. A te la parola. Ma intanto bisogna stare attenti a identificare Mediterraneo come mezzogiorno. Non è così. Noi abbiamo moltissime produzioni che riguardano l'intero territorio italiano, parte del territorio europeo, non solo la Spagna, che si rifanno alla cultura dei grassi vegetali, alla cultura dell'olio d'oliva, alla cultura dell'ortofrutta. Diciamo, non c'è un confine netto per cui si dice queste regioni o questi prodotti. In realtà la dieta mediterranea, come gli studiosi hanno messo in luce anche dal punto di vista degli effetti salutistici che sono stati poi nella predisposizione del dossier della candidatura anche gli aspetti più importanti che abbiamo sottolineato assieme agli spagnoli, e cioè questo modo di vedere il cibo diverso che ha la cultura mediterranea in senso lato rispetto alla cultura nord europea, se vogliamo, più legata ai grassi animali, legati a un'alimentazione sicuramente con più carne, meno pesce, con meno ortofrutta, meno frutta, meno vegetali. Questo è naturalmente uno degli aspetti, perché poi c'è anche un discorso culturale, come diceva Mohamed prima, c'è un aspetto legato al modo di approcciare al cibo, alla convivialità, al modo di diciamo così più tipico delle tradizioni del sud dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati proprio al mare. Bene, se rimani ancora con noi ti faccio ascoltare altri interventi di radioascoltatori, perché mi sembra siano importanti. Andrea da Bologna, buongiorno Andrea. Buongiorno Davide, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Volevo intervenire semplicemente perché ho vissuto 8 anni in Spagna, a Barcellona. Ho girato abbastanza la Spagna perché faccio un lavoro che giro molto, ma non solo in Spagna, diciamo. Amo l'Italia, sono molto campanilista, essendo bolognese, sai. Detto questo, io ho visto anche, cioè quindi conosco cucine italiane di cui sono favorevolmente appassionato, cucina spagnola che altrettanto è l'unica cucina di tutti gli altri paesi, parliamo di bacino del Mediterraneo, quindi conosco. La Francia ha delle grandissime opere, ma io le conosco molto poco, perché veramente io girando e viaggiando in macchina, in aereo, per treni, così, non li vedo tanto molto simili. Poi tornando all'Europa, vedo che ad esempio la differenza tra Italia e Spagna, in Spagna si può mangiare in maniera molto diversificata da tutte le parti, anche nei bar. A mezzogiorno mettono fuori bar, menù, e fanno dei piattini, delle tapas, delle cose così dappertutto, cosa che forse in Italia Io questo non lo vedo quasi mai, anche se ci sono tanti bar che fanno anche loro delle stuzzicherie e cose del genere, ma là proprio si possono mangiare dei piatti. Comunque Andrea, questi pizzicherie, stuzzicherie come tu le chiamate, sono tutte a base di salumi. Io di Mediterraneo su questo ho visto ben poco. Poi permettimi di fare così un'osservazione sulla cucina spagnola. La cucina spagnola negli ultimi 10 anni è altro. La cucina spagnola oggi è nuova nouvelle cuisine, quindi è una cucina anzi che sta così per così dire essere all'avanguardia del mondo e sta trascinando molte cucine compresa la nostra, quindi io sulla Spagna ho molti ma molti dubbi. Comunque ti ringrazio, sentiamo Aldo dalla provincia di Padova. Buongiorno Aldo. Buongiorno. Mi io dica. Sono un addetto ai lavori, nel senso che gestisco un ristorante a Due Carrare, provincia di Padova, con la mia famiglia da tanto tempo. E vorrei rivolgermi, perché in un certo momento ho visto dal mio osservatorio privilegiato, diciamo, che la gente a mezzogiorno si ferma a mangiare fuori perché è in giro e magari non va fuori alla sera per via della crisi. E allora bisogna a un certo momento far sì che la gente che si ferma a mezzogiorno dargli qualcosa, perché è costretta a fermarsi. Ho sentito prima l'ascoltatore, tutti questi stuzzichini a base di salumi, robe, perché ormai tutti i bar fanno qualcosa, però secondo me è una cucina pesante. Però bisogna anche che la gente sappia che si può fermare in un locale come il mio o tipo il mio, che ce ne sono tantissimi, che magari in questo tempo di crisi lavorano poco la sera perché a un certo momento per la crisi economica, e possono mangiare un piatto di pasta, non so, con la vongoletta strana, con le seppioline, piuttosto che con gli scampi che sono più costosi, e spendendo poco, magari si prendono un'insalata così finché aspettano, e spendono pochissimo e stanno bene e vanno via leggeri, senza fermarsi magari in quei posti dove c'è una cucina pesante, improvvisata, dentro o fuori dal frigo, e magari stanno male. Bene, grazie Aldo, volevo leggere un altro sms. Perché si continua a parlare di dieta invece che di alimentazione o cucina mediterranea? La parola dieta è punitiva e la rende perdente in partenza. Paolo, cosa ne pensi? Ma tutto sommato sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che ha mandato questo sms, cioè il termine dieta lo associamo a restrizione, invece il termine alimentazione mediterranea potrebbe essere, diciamo, dare una lettura più ampia. Per cui non la trovo sbagliata. Ecco, sottolineo ancora una volta quello che dicevi tu, attenzione, questa candidatura non è la candidatura di una cucina, infatti secondo me non avrà nessuna possibilità la candidatura francese o altre simili. Qui stiamo parlando di effetti oggettivi riconosciuti dalla scienza circa questo tipo di alimentazione, altrimenti non ci sarebbe, non è un fatto campanile, è un fatto di dati oggettivi, certo, di cultura, di territorio, di tradizioni, che hanno dato, alla luce degli studiosi di queste cose, diciamo degli scienziati dell'alimentazione, hanno dimostrato gli effetti positivi sulla salute. Allora ecco che l'omologazione, la globalizzazione, il rischio che possa scomparire questo tipo di cultura fa nascere questa candidatura come una salvaguardia a quella cultura mediterranea di cui sono caratteristiche però molti popoli. Non c'è un fatto, purtroppo ho visto anche certi atteggiamenti, tra virgolette, non voglio far polemica, leghisti, tipo ma dobbiamo promuovere la dieta padana, no, non è un fatto di territorio, è un fatto che prende tutta l'Italia. Pensate al riso, tipicamente produzione del nord Italia, che è invece assolutamente mediterraneo dal punto di vista delle caratteristiche del prodotto. Quindi è un discorso che deve coinvolgerci tutti e che può riconoscere questi effetti oggettivi, non soltanto un fatto di campanile. Bene, grazie, ti ringrazio del tuo intervento a te, e a presto. Sentiamo Francesco da Bari. Buongiorno. Buongiorno Francesco. Dottore, io la disturbavo perché io sono un produttore, un piccolissimo produttore di olio extravergine di oliva, e io vorrei tanto che quando si parla di olio non si deve parlare di olio di oliva, che è un'altra storia, un'altra cosa. Si deve parlare di olio extravergine di oliva, che secondo me è il fulcro di quello che è la dieta mediterranea, perché se non ci fosse l'olio extravergine di oliva cadrebbero determinate situazioni. Beh, ce n'è poco, perché quello che arriva dalla Spagna, insomma, forse no, è molto è olio di oliva. Dottore, non è che ce n'è poco, ci sono i furbetti del quartierino che ne fanno diventare poco. Guardi, le leggo un sms appena arrivato: il Mediterraneo finisce dove finisce l'ulivo. Franco da Chiavari, come non dargli torto. Pietro dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo dire soltanto una cosa, ma se si avanza la candidatura della cucina padana, poi bisogna accettare che la cucina mediterranea è una cosa che esclude la Padania. Allora non lo so se ci vogliamo dividere anche su questo. Il problema, Pietro, abbiamo sentito da più voci che il discorso non è tanto su un discorso di cucina e di piatti, quanto un discorso di stile di vita, di modo di alimentazione e di scienza dell'alimentazione. Comunque su questo diciamo che ci sono tutti gli estremi per poter fare. Io avevo già intenzione di fare una trasmissione, la faremo fra 2 settimane, in cui discuteremo dei valori della dieta mediterranea, dei valori di altre tipologie di cibo e di mangiare, magari contrapponendo dal punto di vista scientifico queste cose. Quindi sicuramente chiameremo dei nutrizionisti, chiameremo dei medici e faremo una trasmissione ad hoc sui valori intrinsechi di queste due modi di alimentazione. Io la ringrazio, Pietro, di questo suo intervento. Ora abbiamo con noi uno, diciamo, di coloro che ha diffuso nel mondo questo modo di alimentarsi, chiamiamolo meridiano, chiamiamolo mediterraneo, che è Alfonso Iaccarino. Buongiorno Alfonso. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Io ho un minuto, poi rimani in linea perché ti richiamo dopo il break che avremo. Alfonso, tu hai portato avanti questo discorso in tempi in cui forse nessuno ci credeva sul boom del cibo mediterraneo, dell'alimentazione mediterranea, è così? Sì, sicuramente Davide. Facendo seguito a tutto quello che ho sentito in questa bellissima, nel tuo bellissimo programma, penso che si sia portato un pochino il discorso sul campanile, che è assolutamente sbagliato. Certo. Io credo che questo paese è grandissimo per tutti i prodotti che offre. Anzi, tenevo pure a precisare un'altra cosa, che nell'ultima riunione di Bruxelles è stato deciso di chiamare alimentazione mediterranea e non più dieta mediterranea. Bene. È una cosa importantissima cui ci tenevo a dire. Io penso che sia anche un'occasione economica per tutto il paese, perché tu sai benissimo che la grande industria del nord, la manifattura del nord, noi meridionali siamo tra i maggiori consumatori dei prodotti del nord. Negli ultimi anni cosa è successo? Che noi ci siamo abituati tantissimo ad usare tanti prodotti che non facevano parte della nostra cultura. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di alimentazione mediterranea oppure contro cucina francese. Abbiamo detto per il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Alfonso Iaccarino è con noi, oltre ad essere un grande, grandissimo chef col suo ristorante Don Alfonso a Sant'Agata sui Due Golfi, anche componente, io ero dimenticato di dirlo prima, della commissione di esperti per il riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio culturale. E stavi facendo un discorso importante, Alfonso, stavi dicendo appunto che il sud consuma molto dei prodotti del nord, quindi non bisogna fare un discorso di campanilismo o sicuramente un discorso politico, è così, vero? Sicuramente, questo è il principio. Però io ti dico una cosa, che anche gli ultimi dati della Confindustria vedono il settore agricoltura in grossa crescita in confronto alle altre attività del paese. Per cui cosa sta succedendo? Che finalmente il Sud ha incominciato a capire l'importanza di certi prodotti, tanti piccoli imprenditori si stanno mettendo da soli, hanno capito che finalmente bisogna iniziare una nuova fase della nostra storia economica. Questa alimentazione mediterranea può aiutare al Sud in una maniera molto importante a far diminuire il divario economico nord-sud, perché se il Sud diventa più ricco può spendere di più. Quindi praticamente noi abbiamo delle facilità ad acquistare macchinari, prodotti di manifattura che noi al sud non riusciamo a produrre. E poi nel campo globale, se tu guardi una cosa, che cos'è l'alimentazione mediterranea? L'alimentazione mediterranea fa cambiare anche il carattere delle persone, noi siamo un poco diversi nel nostro modo di vita, nelle nostre tradizioni, nelle nostre abitudini. Siamo forse un pochino più disorganizzati, ma da parte nostra c'è quella grande umanità che io dico che viene pure dal modo di mangiare, così pure nel mondo animale. Se tu prendi la mucca, che è un erbivoro che mangia cereali, è un animale dolcissimo, il cavallo stesso, ma se tu guardi il leone che mangia proteine animali oppure la tigre, sono degli animali aggressivi. Quindi secondo me il fatto stesso, in un momento di difficoltà di vario genere di questo paese, un'alimentazione più consona ai tempi, perché noi siamo cambiati sostanzialmente nelle nostre abitudini e nel nostro modo di vita, non possiamo mangiare più come si mangiava una volta, perché una volta si lavorava più manualmente, adesso è più un lavoro del cervello, per cui l'alimentazione si è cambiata da sola senza che noi ce ne siamo accorti. Quindi oggi è bellissimo trovare il tartufo a Sant'Agata su De Golfi, il parmigiano, i grandi prosciutti del nord, come è bellissimo nei grandi ristoranti del nord trovare la pasta di Gragnano, di Torre Annunziata, il pomodoro, il basilico, la colatura di alici, gli alici, il tonno, il pesce azzurro che prima non si usava. Quindi questo secondo me è una cosa importantissima per il paese, che ci dà delle nuove prospettive che finora noi non abbiamo considerato. Bene. Certamente non sto a fare i discorsi del benessere salutare eccetera eccetera, che no, quelle le faremo fra due settimane. Grazie Alfonso, grazie tantissimo, grazie, a presto. Bene, voglio sentire Sergio dalla provincia di Treviso. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno. Io ho un ristorante a Oliano di Conegliano, nei giorni di Conegliano, diciamo nella zona del Prosecco, e da sempre, da 40 anni, facciamo la paella, facciamo la cucina spagnola, mia moglie è di Siviglia, e così volevo dire che è un abbinamento eccellente quello tra la paella e il prosecco fresco e frizzante. Volevo dire qualcosa sulla Spagna, che lei ha detto prima. La Spagna è molto variegata, perché per esempio nell'Andalusia, dove io conosco, ci sono ancora le tapas di pesce, sì, di olive, di tante cosette molto sfiziose, non è solo salumi. Naturalmente la fa da padrone il prosciutto di zampa nera di quelle parti lì. No, io non ho detto, io dico che la Spagna dal punto di vista della cucina sta andando su tutt'altra direzione, con dei filoni che sono impersonati da grandissime chef sia in Catalogna che nei Paesi Baschi. Quindi il grande rinnovamento mondiale, diciamo la cucina d'avanguardia, oggi in Spagna, mi sembra che la Spagna stia lasciando abbastanza le proprie tradizioni. Io ho detto semplicemente questo, poi sicuramente le tapas sono ancora in Catalogna, ci sono sicuramente ancora nei Paesi Baschi, che l'uso di certi prodotti è sempre quello, però dal punto di vista, se vogliamo così, dell'innovazione, la Spagna sta andando verso una direzione che io vedo completamente diversa. Tutto qui. Bene, sentiamo Ezio dalla provincia di Lucca. Buongiorno Ezio, veloce. Buongiorno, perché ho poco Davide. Tempo. Buongiorno. Buongiorno Davide, no, io sono un produttore di gelato artigianale, sì. Volevo sottolineare una cosa sola, come alternativa a un grande spaghetto di pesce o quant'altro, uno gelato artigianale fatto con i frutti della nostra Sicilia, eccetera eccetera, tutto qua. Va bene, grazie. Prego. Abbiamo con noi l'onorevole Renato Farina, membro della 13ª Commissione Agricoltura. Buongiorno. Io so che tu hai presentato delle mozioni all'interno della commissione proprio di sostegno alla candidatura della dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità. Allora ti devo correggere, perché la mia mozione, che è stata approvata all'unanimità ed è cofirmata dal Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, è di oggettivo appoggio all'iniziativa che il governo Prodi aveva già preso, però dà una correzione. Cioè, voglio dire, noi parliamo di cucina italiana. Se tu guardi gli atti della Camera, e con il parere favorevole del governo, mi stupisce che il sottosegretario Martini non sia informata, noi abbiamo prima di tutto incluso nella mozione queste parole di Sarkozy, che è quello: l'unicità gastronomica del nostro paese è eccezionale. Ho preso l'iniziativa che la Francia sia il primo paese a depositare nel 2009 una candidatura presso l'UNESCO, perché si permetta il riconoscimento del nostro patrimonio gastronomico come patrimonio mondiale. Abbiamo la migliore gastronomia del mondo. Noi invece abbiamo, fino ad ora, abbiamo opposto una identità culturale comune dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e la sostenibilità salutistica di queste cose. Secondo voi chi vince? Cioè, voglio dire, Io sono molto perplesso sulla formulazione che si è venuti a concordare con la Spagna, la quale tra l'altro spinge di più sul flamenco, perché sono tre i candidati: la cucina francese, la dieta mediterranea, perché si chiama così nella mozione depositata, anche se adesso la si cambia in Europa, però resta quello, e il flamenco. La Spagna appoggerà sicuramente il flamenco, perché è molto più caratterizzante che non il couscous marocchino per lei che è l'olio d'oliva per noi. Quindi, mentre la mia mozione è di Russo, che è stata approvata, dice: secondo il giudizio dei massimi esperti del settore, il nostro patrimonio gastronomico in fatto di formaggi, salumi, vini, oli, eccetera, non ha nulla da invidiare ad altri paesi del mondo, così come la nostra cucina regionale è quella offerta da piccoli e grandi ristoranti, e i nostri migliori cuochi sono ai vertici dell'arte. Ecco, questa è la cosa. Beh, io credo che la Francia sostiene la cucina, certo, come patrimonio già lei della propria cultura. L'idea di terroir, di territorio francese, comprende tutto, dalla cultura, dall'opera d'arte fino all'opera d'arte che mangi al ristorante o anche in un semplice bistrò. Mi sembra che ancora c'è questa visione salutistica qui perdente. Poi, mi scusi, io intervengo su Iaccarino. Questa storia che i carnivori sarebbero aggressivi, invece i tonni no. Cioè, cosa mangiano i tonni? Siccome mangiano il pesce sono meno aggressivi? Cioè, non capisco. Siccome le acciughe non si lamentano quando vengono sbranate dai pesci del mare che poi finiscono nella tavola di Iaccarino, vanno bene. Cioè, smettiamola con questa retorica del cavolo. Ecco. Renato, tu hai dato un colpo finale interessante che appunto mi permette di annunciare, l'avevo già detto, fra due settimane torneremo sull'argomento e andremo a sviscerare soprattutto i valori salutistici dei vari modi di mangiare, perché secondo me appunto non ne esiste uno solo, e anch'io ho molti dubbi sul discorso di presentare la candidatura assieme ad altri, perché non riconosce certe nostre peculiarità. Con questo non voglio mettere contro dieta mediterranea con dieta padana, perché sarebbe veramente sciocco. In realtà noi abbiamo un modo di mangiare, di alimentazione, che è nostro, e chiamarlo con altri nomi è sicuramente un errore. Fra due settimane torneremo sull'argomento. Grazie, io vi do appuntamento domani, verrà data in replica questa trasmissione alle ore 10, alle 12.15 il wine bar del gastronauta, e tutti i giorni alle 18.30 con la pillola. Buon weekend dal vostro gastronauta.